cerco più, se c'è una verità altrove. Non mi aspetto più mare, la mia roccia di sale. Tu non puoi capire, né potrai negare, quando sentirai in te la mia angoscia che sale come un'onda nel cuore. Io non sogno più, lo sai, già fatico a dormire. Non mi illudo più, se quel sole trova le parole, frasi da asciugare, quando soffierà su te del mio giorno. Forte nei respiri e dolce nei pensieri, più alto nei confini ed oltre nei cieli. Io non soffro più, ormai la mia spina è sottile, non la sento più, però se la tocco fa male, forse sarà.